Kellogg. La realtà condivisa. Di Gianluca Nicoletti. Nulla vi sarà più utile questa mattina che riascoltare la nostra puntata per la difesa del pelo. Sì, un giorno noi lanciammo questa campagna che ci sembrava assolutamente umanitaria, che voleva le donne non più sottoposte a questa rigida regola, a questa norma indistruttibile, doversi depilare l'ascella e anche altre parti se vogliono. Oggi è giusto che voi che siate in spiaggia, che vi siete massacrati magari durante la notte a farvi l'ultima ceretta, l'ultimo ritocchino, l'ultima spuntatura prima di andare in spiaggia, sappiate che esistono uomini che possono apprezzarvi per quello che siete, senza che necessariamente passiate per la tortura della ceretta, del rasoio, dell'epilatore. Mi scrive un'ascoltatrice sul profilo Facebook, ma mi arriva anche tramite Twitter, Melog et Radio 24. Oggi non dovevamo parlare di pelo sullo stomaco. Sì, infatti ieri quello avevo scritto, avremmo parlato di pelo sullo stomaco, ma ho lievemente allargato l'orizzonte perché mi urge fare una precisazione, soprattutto avere un confronto, una verifica con il mio pubblico rispetto all'eclissi del pelo come naturale componente del corpo umano. Giorni fa, ricordate, c'è stata quella divertentissima polemica sui giocatori della nazionale italiana, sulla frase che ha detto Alessandro Cecchi Paone sulla loro metrosessualità, cioè sulla loro eccessiva e particolareggiata cura nell'aspetto fisico, nel nitore e nella depilazione dalla sopracciglio all'alluce del piede, che li farebbe appunto annoverare in quella categoria di maschi appunto metrosessuali, che hanno una fantastica cura del loro corpo, arrivando in una zona liminare in cui la mascolinità comincia a entrare in quelle che sono classicamente le aree dedicate alla cura femminile del proprio corpo. Altresì, d'altra parte, esiste un profondo e radicato tabù nei confronti di tutto ciò che rappresenta naturale coronamento di alcune parti del corpo umano, per cui oggi se una signora o una ragazza evita di depilarsi le ascelle, vedete già nel dirlo provo un senso di particolare pudore, viene considerata quasi una sorta di perversione. Ah, non si depila le ascelle, quindi viene subito classificata in quelle categorie di persone che hanno delle parafilie irraccontabili, o perlomeno raccontabili soltanto in aree specializzate del web. Esiste la categoria di quelle che gli piace calpestare i coniglietti, quelle che gli piace vestirsi con tute aderenti di gomma e quelle che non si depilano le ascelle. Beh, tutto questo vi sembra appartenere a un segno coerente della contemporaneità? Ormai non è un retaggio passato, fa parte di un'epoca che non c'è più, è l'ultimo cascame dei favolosi edonistici anni Ottanta, questa sorta di disprezzo per ciò che naturalmente orna alcune parti del nostro corpo. Beh, la domanda è questa. 800240024. Giorno di pulizia e di cerette, estetista Caterina e la cavia, io. No, ma chi dice dall'altra parte? Come? Stai fermo però. Ah! Ah, è calda! È brucia! Te l'ho soffiato, Ciro! Ma... ah, chiama brucia! Sto a sudare, altrimenti non vengono via. Vai, vai, sì, Caterina. No! Sotto le braccia, Ciro. Col cazzo sotto le braccia non faccio fa. Aia, ma come cazzo fate? È un'atrocità. Allora, non ho motivo di nemmeno dati per citare chi siano i protagonisti di questo video, uno dei tanti su YouTube. Ogni tanto qualcuno ci scrive: ah, avete fatto ascoltare il mio video su YouTube e non mi avete citato, quindi è una grave omissione. Signori, mettete cialtronate quotidiane in rete perché tutti le guardino, non pensate che poi sia indispensabile per il mondo sapere esattamente quale sia la connotazione anagrafica di fare queste cose. Ecco, questo lo dico a mamme, zie, nonne e gentili fidanzate, è uno dei banali rituali di iniziazione in cui per cui un adolescente va nella cameretta di alcune sue compagne di classe e sottopone alla depilazione totale. Le ragazze, felici, liete, lievemente sadiche, applicano la ceretta dai luoghi nominabili e innominabili del loro partner, trasformato in una sorta di orzacchiotto con cui giocare, una bambola da pettinare, un supporto di loro sadiche fantasie. Vedete, soffre sì, perché fare la ceretta sul torace per un uomo pensa qualcosa da svenire, altresì immaginare soltanto l'estirpazione, la deforestazione violenta con la ceretta nelle proprie aree intime è qualcosa che appartiene alla tortura cinese. Eppure questo si fa normalmente. 800240024, ne avete esperienza, ne avete conoscenza, siete d'accordo, siete contrari, già appartenete a Generazione del Futuro, agli avanguardisti del libero pelo. Il corrosoio fa male. Dai, allora fai così. No. Sì, ma preferisci velocità fare un buco di roba. Uno o velocità due? Due. No, no, due. No, due. Non fa male, non guarda, fa male. Paura. No, no, tranquillo. Dai, giù. No, non posso. Godi. Ah! Ma brucia. C'è memoria di antichi, tribali, detestabili rituali di iniziazione maschile in cui gli uomini si trafiggevano, si insertavano oggetti sotto pelle, si facevano tatuaggi tribali, scarnificazioni rituali, si buttavano armati soltanto di uno stuzzicadenti nelle fauci di una belva che dovevano sconfiggere, si gettavano a torri altissime legati a un calcagno, si appendevano pesi innominabili alle loro parti intime, insomma facevano delle cose dolorose, perché il passaggio iniziatico dall'età fanciullesca all'età adulta è un passaggio periglioso, doloroso. Devi diventare uomo, soffri. Devi diventare uomo, soffri facendoti strappare i peli. Alessandra Di Pietro, quando avrai smesso di filmarmi con il tuo iPhone, potrai rispondere alle mie domande. Alessandra Di Pietro è giornalista, autrice di Godete, ADD editore, oggi anche in ebook, libro di cui abbiamo parlato con dovizia di particolari qualche settimana fa. Alessandra Di Pietro, tu giorni fa in un tuo blog avevi citato, adesso non ho più il pezzo di cui ne parlai, un'interessante storia di una signora che evitava, come le nostre mamme, le nostre nonne, le nostre bisnonne, le nostre prozie, le nostre antenate, le donne che fecero l'Italia, le donne che riuscirono ad allevare uomini prodi e valorosi, facevano sempre, cioè non si depilava le ascelle. Cosa successe? Buongiorno a tutti. Allora, io ho riferito la storia di una blogger inglese che per 18 mesi non si è mai depilata. E poi lo ha raccontato in un articolo e ha raccontato delle scene apocalittiche, mamme che allontanavano i bambini, persone che facevano largo al suo passaggio. E in realtà tutto questo a lei sembrava veramente spaventoso, nel senso che si guardava allo specchio e non pensava di essere una donna così brutta, una donna così orribile e neanche una donna così sgradevole. Era semplicemente una donna che non depilava le ascelle. E la reazione violenta degli altri ha fatto scattare in lei invece un atteggiamento estremamente ironico, per cui l'articolo era molto divertente. Io l'ho ripreso perché è una storia che sento molto mia. Allora, io ho un livello di depilazione che è un livello minimale. Guarda, oggi... il mondo può vederlo oggi guardando nel profilo Facebook di Radio 20, Melog Radio 24, perché ho filmato le tue ascelle pelose e l'ho messe online, perché mi sembra che se uno deve dare un'informazione deve essere corretta e soprattutto a 360 gradi. Esatto, allora io ho un livello di depilazione minimale che è quello di depilare le gambe, depilare un po' i baffi in caso, ma le ascelle l'ho fatto qualche volta nella mia vita, le parti intime uguali, per il resto non è un argomento che mi interessa. Allora, cioè non ti fai questo problema, ecco. No, non mi faccio questo problema, ma proprio non mi piace, e anzi penso che le ascelle pelose siano belle da guardare, siano belle da toccare, mi fanno sentire bene. Ecco, uso delle accortezze, magari appunto ho una mia cura, non mi va di essere classificata come una donna che non si cura solo perché non mi depilo. Scusami, fermati un attimo, perché ho subito un feedback che conferma quello che stiamo dicendo. Innanzitutto il numero è 800240024. Io penso che con delicatezza di intenti e con animo candido si possa parlare di tutto. Quello di cui vorrei parlare stamattina è una deriva del gusto, di cui probabilmente ci sono delle ragioni, ma vogliamo trovarle questa mattina. Già scrive un ascoltatore tramite un SMS, dice: Nicoletti, i peli sotto le ascelle fanno schifo perché mandano cattivo odore, bisogna togliere col rasoio. Io rispondo a questo ascoltatrice o ascoltatore: se così fosse, la metà del mondo farebbe schifo e emanerebbe cattivo odore, perché normalmente gli uomini raramente se li tolgono. Mi sembra un grosso pregiudizio. Con saponetta e deodorante, secondo me, si ovvia qualsiasi problema. Mm-hmm. Beh, sì, no, però il pregiudizio è questo. Mi rado perché altrimenti è mancanza di igiene. No, non credo che sia mancanza di igiene, altrimenti dovremmo pensare che fino a un paio d'anni fa nessuno di noi manteneva un buon livello di igiene. Il livello di igiene si mantiene e non credo di poter essere classificata tra una persona che non si occupa né della propria estetica, né della propria igiene, né della propria gradevolezza, semplicemente perché mi rifiuto di farmi estirpare dei peli in una zona che peraltro è estremamente delicata, una zona dove ci sono molte ghiandole, in cui lo strappo della ceretta può essere violento. Se ci sono, avranno una loro funzione, fra l'altro. Sì, avranno la loro funzione. Io non voglio neanche entrare nel mito della naturalità, perché è ovvio, altrimenti ci faremmo crescere i capelli lunghi, fine peli, e io non li avrei qui colorati di un rosso acceso. Non è una questione di naturalità, è una questione che ciascuno di noi può almeno decidere il governo dei suoi peli sul corpo. Ecco, io decido di tenermeli così. Poi, per carità, chiunque può dire non li amo, però da qui a classificarmi come una donna zozza perché non mi tolgo i peli, ecco, credo che ci sia una forma di prevaricazione più da parte loro che da parte mia. Fermati un secondo, hai detto una cosa molto corretta. Sul momento in cui ci alziamo la mattina e facciamo un atto per imporci la massima tolleranza verso ogni deriva del gusto, ogni possibile inclinazione dell'umanità, però di fronte a questo siamo tutti concordi. Ieri ha telefonato un ascoltatore che parlava di sue vacanze estive all'inizio degli anni 60 in Puglia. Dice: andavamo a riva al mare, poi con della pietra pomice ci toglievamo di dosso lo sporco perché ci si lavava poco in quei tempi. Ecco, è cambiato un po' da quel punto di vista, ma da questa sorta di tabù nei confronti di una non totale depilazione sembra che ancora dobbiamo fare dei passi avanti. Sentiamo qualche ascoltatore. Celio, buongiorno. Buongiorno. Sì. Mi sente? Sì, certo. Buongiorno. Sì. Buongiorno. Ma io intervengo su questo argomento che secondo me è molto leggero, ma più che altro perché non capisco perché bisogna sempre estremizzare. Io personalmente non mi sono mai depilato, ho degli amici che maschi, intendo dire, che vedo che insomma se hanno molta cura di sé, si mettono a posto le sopracciglia, si depilano. Non riesco a capire quelli che giudicano, come diceva la sua ospite prima, che giudicano le persone che non amano depilarsi come delle persone che curino poco il loro aspetto fisico, la loro igiene, ma non riesco a capire anche perché ultimamente bisogna puntare l'indice verso quelle persone che invece amano curarsi, ma amano in quella maniera, insomma. Posso rispondere? Sì, sì, posso rispondere, cioè, mi sembra che essere accusato di intolleranza non mi appartiene. Non puntiamo il dito, ognuno fa quello che gli pare, partiamo da questo principio. È liberissimo il metrosexual di vestirsi come vuole, depilarsi come vuole, curarsi come vuole, ma non può essere quello il punto di riferimento dell'umanità intera. Non può una donna che non ha voglia di sottoporsi alla tortura della depilazione ascellare sentirsi additare come donna sporca o donna perversa che fa questo, ma perché chissà cosa allora ci sia dietro. Allora io le ribalto una domanda, parlando soprattutto dei maschi e dei metrosexual di cui si discute molto negli ultimi giorni, se non possono essere loro il metro, il canone di riferimento, no, per misurare la cura della persona, possono esserlo certi maschi, certi uomini che non hanno nessuna cura, che non dico che siano sporchi, ma che non hanno, che sono trasandati, che sono sciatti, che sono un obbrobrio da vedere anche, penso, non possono neanche quelli essere. Guardi, io penso una cosa, che esista un livello di barbe trascurate, sì, non sì. Barbe di due giorni, ma capelli senza nessun... No, ma oggi siamo abituati a un livello di accettabilità, anche perché facciamo vite molto promiscue, stiamo molto vicini nelle metropolitane, negli autobus, nelle file, negli uffici, nelle stanze in cui passiamo le nostre giornate con un collega accanto. Se emanasse odori sgradevoli, fosse sgradevole al colpo d'occhio, sarebbe un fastidio per tutti, quindi è chiaro che esiste una forma mediata di buonsenso. Noi stiamo parlando di qualcosa di più teorico, probabilmente, dato per scontato la base, che nessuno emani cattivo odore, nessuno sia sgradevole, nessuno sia trascurato. Nella non trascuratezza, però, non possiamo mettere anche un lecito diritto di non essere per forza adeguati a quello che è l'ultimo grido, perlomeno un retropensiero riguardo l'aspetto fisico. Alessandra. Guardi, quello che lei dice non ha nulla a che vedere con l'estremizzazione con cui dobbiamo confrontarci. Allora, la gradevolezza di ciascuno di noi è una forma di rispetto nei confronti dell'altro e ciascuno di noi sceglie uno standard di gradevolezza. Allora, oggi ci troviamo di fronte ad una sorta di tabù del pelo. Mostrare una parte di sé non depilata diventa quasi un volere offendere gli altri. Le faccio un esempio. O provocare. Un po' provocare. Le faccio un esempio banalissimo, le celebrities. Allora, se una attrice come Julia Roberts o Beyoncé vengono scoperte da un paparazzo con un pelo sotto l'ascella, vengono messe alla berlina, lei può cercare su internet, vengono fotografate, zoomate di ingrandite, si dicono delle cose nei forum che sono ai limiti dell'insulto e del razzismo, soprattutto quando poi sono le donne nere a farlo. E un'attrice protagonista di Precious, un film, dovette fare un comunicato stampa perché si presentò al Golden Globe con le gambe non depilate. Dovette fare un comunicato stampa in cui diceva: la scelta di non depilarmi è una scelta etica mia, condivisa con mio marito, non è un insulto nei vostri confronti. Cioè, dovete fare un comunicato in cui smentiva la libertà, cioè dovete smentire quello che gli altri avevano pensato, che lei volesse quasi offenderlo. Allora è evidente che di fronte a reazioni così sconsiderate abbiamo un tabù, e il tabù in questo caso è quello del pelo. Allora vada un po' a vedere anche che cosa succede nei centri estetici. Nei centri estetici oggi la depilazione genitale integrale femminile e maschile è uno standard in ascesa continua, che provoca anche dei problemi fisici. Sì, ma sono delle scene da hostel, mi hanno raccontato, cioè torture, schizzi di sangue, urla, gente che va a digiuno per aver paura di dover rimettere dal dolore. Sì, questo è anche vero. Per esempio, non so, la mia estetista ha intrapreso una crociata per cui per ogni ragazza di sotto i 18 anni che va nel suo centro per avere la depilazione integrale, lei si ferma e cerca di ragionare con lei sul perché di questo desiderio. Poi magari gliela farà anche, però cerca quantomeno di rendere più consapevole. In Godete, il libro che ho scritto un paio di mesi fa, affrontavo un tema molto interessante. Era il tema della vaginoplastica, ovvero della chirurgia sui genitali per ragioni puramente estetiche. I medici, cioè coloro che lo fanno, mi hanno raccontato che l'aumento delle richieste e anche degli interventi è direttamente proporzionale all'ascesa della depilazione integrale genitale, ovvero abituate a non vedersi, le donne a un certo punto si scoprono e cominciano ad avere una sorta di disagio con se stesse. Nasce una nuova ingegneria dell'intimità. Scusa un attimo Alessandra, devo fare un appello, stanno chiamando soltanto maschi, mi piacerebbe sentire anche il parere delle donne, sia come soggetti passivi di questa necessità di doversi deforestare, sia qual è il loro punto di vista rispetto agli uomini che si depilano, gli uomini che si ipercurano, non con intento censor, ma semplicemente per avere un punto di vista, un polso rispetto a una moda estetica. Sentiamo Andrea, buongiorno. Ah, buongiorno, senta, io ho 58 anni, non penso di essere una persona diversa da tanti altri. Guardi, forse l'emancipazione, il fatto estetico-culturale che sia cambiato nella nostra vita. Io adesso il pelo anche sul mio corpo lo odio. Io a 58 anni mi chiudo nel bagno e mi depilo con la macchinetta o con il rasoio. Con il rasoio elettrico, quello della barba o con... No, beh, con il rasoio, quello della depilazione. Allora oppure si insapona. Oppure con il rasoio da barba, con la schiuma da barba. Io odio il pelo, veramente. Dopo un giorno già c'ha quei peletti che riescono, sì, a rifare. Sì, i peletti, certo. Vabbè, ma non è che crescono nel giro di un giorno. Beh, è una gran fatica. Io, guardi, è un mese che non mi faccio la barba e non mi sembra, non mi sembra vero. No, comunque anche la donna è un fatto. Ma anche sulla schiena? No, sulla schiena non, fortunatamente non ne ho. Ne ho nel culo. Beh, no, siamo pari. E quello me lo depilo. Però, ognuno passa ai suoi hobby, che vuol dire? Certo, ma avere anche vicino una donna che ha il pelo, non dico... Vabbè, è chiaro. Ma quasi lo è. Ma lei sta coltivando una tricofobia, è chiaro che poi non può più vedere nemmeno le donne pelose. Comunque, lei è liberissimo di farlo. Se ciò la paga e la fa stare sereno, la fa star bene, va benissimo. Fabio. Fabio. Buongiorno Gianluca, buongiorno, buongiorno alla sua ospite. Partendo dall'inizio del tema, cioè la respirazione ascellare femminile... Diciamo totale, ascellare, come vuole, sì. Beh, sull'ascellare sono completamente a favore, nel senso che... Vanno tolti. Per esempio, sì, secondo me sì. Secondo me, a me fa piacere che mia moglie mi tolga con una certa frequenza. Per esempio, non ritengo necessario, poi mia moglie per esempio lo fa... La depilazione sulle braccia, perché molte donne anche per esempio sulle braccia. Dipende, se c'ha l'avambraccio peloso può piacere, può non piacere. Sì, qualcosa c'è, ma non è così, diciamo, orripilante. Per esempio, tornando all'SMS che ha citato lei all'inizio puntata, io ho provato la depilazione ascellare, quindi su di me, e il fatto che la mancanza di peli non c'entra niente con... Ma assolutamente, ma è chiaro, quando uno si lava e usa un buon deodorante non è quello il problema, Grazie infinite Fabio, ci fermiamo un istante, do la linea all'informazione della borsa, poi riprendiamo questo interessante argomento, però vorrei sentire qualche parere femminile, se no ce la stiamo a cantare e a raccontare tra uomini con la sola Alessandra Di Pietro, cavia umana e femminile di Donna Pelosa. Melog, la realtà condivisa. Sotto il video del cappellaio matto dove sono a petto nudo, qualcuno mi ha scritto: scusa, una curiosità, che metodo usi per depilarti le ascelle lasciandoti il buffetto centrale? Quanto ci metti? Potresti fare un video tutorial? Non ci faccio un benemerito piffero alle mie ascelle, sono così e così me le tengo. Sono così, sono fatte così, cioè... Non ci faccio niente, niente di niente. 800240024, come vedete il problema è sentito, su YouTube c'è una folta rassegna di video in cui l'umanità si divide sul farlo o non farlo, sul toglierlo o non toglierlo e se si toglie con quali mezzi toglierlo. Questo è uno che proclama il suo orgoglio per l'ascella pelosa. Arrivano molti sms, scrivono molte donne, ci sono vari punti di vista, non vorrei ripetere i luoghi comuni che abbiamo già lambito, vorrei affrontare questo problema rispetto al fatto che probabilmente questa smania di integrità, di pulizia, di depilazione fa parte in una delle tante espressioni della nostra inguaribile mania di non diventare mai adulti, non crescere mai, rimanere eterni bambini. Si annulla sempre più il pregiudizio che l'età significhi un cambiamento, si rimane sempre uguali, sempre imberbi, tutte bamboline Barbie e tutti Ken, sempre sorridenti, sempre plastificati, sempre totalmente glabri. Ornella. Sì, buongiorno. Io ho sentito questa trasmissione, ho 51 anni e da sempre mi depilo perché è una scelta, diciamo, personale. Frequento una palestra, vedo molte donne perché effettivamente tutti si spogliano e fanno le docce eccetera eccetera. Molte sono depilate e altre no. Ritengo che sia proprio solo una questione di un gusto e non di pulizia. Semplicemente era questo il mio... Le voglio dire, esattamente, confermo che l'abbiamo già detto prima, poi non vogliamo entrare negli ambiti della trasmissione Nicoletta Carbone, non è che ci interessi tanto parlare di aspetti ghiandolari, ormonali, sudatori, via dicendo. Lei dice, è una questione di aderire o meno a quello che è un gusto generale, una linea generale. Monica. Buongiorno a tutti quanti. Allora, partendo dal presupposto che non è il pelo che fa la pulizia, brava, questo siamo d'accordo, è un assioma assoluto, io penso che il pelo abbia una sua estetica, nel senso che l'uomo completamente glabro, a meno che non sia così naturalmente, è veramente, come diceva prima, un Ken e fa un po' senso, francamente. Però c'è chi piace, diamo il diritto che a qualcuno piaccia. Sì, non è... Ah, io sto parlando per il mio gusto personale, perché sto parlando di una mia estetica del pelo, per cui secondo me un uomo con un, diciamo, disegno gradevole su petto, eccetera, eccetera, ha il suo perché. Perché comunque richiama un discorso anche animalesco, chiamiamolo. Vabbè, le piace l'abbraccio di King Kong, lo scimmione. No, che... no, anche l'uomo scimmia però è un po' eccessivo, voglio dire, cioè, può creare delle problematiche. Comunque vabbè, dice l'uomo un po' c'è di essere. Lei pensi che la mia generazione... all'età di 8 anni già si cercava di radere il nulla che aveva sul petto per essere prima possibile pelosi, poi andavano le camicie sbottonate e bisogna per forza mostrare. Sì, assolutamente. Nei confronti delle donne, viceversa, assolutamente è una scelta personale. Però o una ha la fortuna di essere ipotracheotica, o se no, francamente, un eccesso anche lì non è molto estetico. Salva comunque la libertà. Cioè, io faccio un discorso squisitamente estetico. Quindi secondo me l'estetica è nel giusto mezzo. Avere, lasciare laddove la natura ha messo la giusta dose, però con una certa cura, con una certa attenzione, diciamo, alla cosmesi e all'aggiustamento di ciò che la natura renderebbe irregolare e arruffato. Alessandra Di Pietro, ricordo che è una giornalista, è autrice di Godete, di editore, oggi anche in ebook, esperta di tendenze femminili, problemi femminili e soprattutto di liberazione dai tabù della femminilità. Più che, secondo me, l'argomento del pelo, più che riguardare solo le donne, riguarda uomini e donne. È evidente che c'è un processo di erotizzazione e di giovanilizzazione che riguarda gli uomini e le donne nella stessa maniera, e che all'interno di questo processo, proprio nell'immagine che tutti i giorni ci viene data sui giornali, sulle televisioni, ma proprio anche per strada, nelle palestre, dove ci pare, sono gli uomini e sono le donne che vivono entrambi i processi. Un processo di erotizzazione per cui c'è sempre una necessità di dover essere attrattivi e di dover essere adeguati a degli standard che viene sempre estetici, mascherata con l'igiene. Allora, che viene mascherata con l'igiene. Mi faccio la depilazione totale perché è igienica. No, in realtà perché pensi di attizzare di più. È uno standard. L'altra cosa è questo processo di eterna giovanilizzazione per cui bisogna sempre dimostrare meno dell'età che si ha e anche qui essere adeguati a degli standard estetici. Questo riguarda uomini e donne. Non a caso anche qui faccio l'eco di un programma in cui questo aspetto viene molto messo in evidenza. Allora, badate che perché cresce il pelo e ancor di più quando cresce il pelo? Il pelo cresce quando si comincia a diventare grandi. È questo che io rispondo a mia figlia, che mi guarda e mi dice: mamma, ma perché cresce il pelo? È questo, il pelo cresce quando diventiamo adulte. E poi segue: ma allora perché ci togliamo il pelo? Ecco lì la domanda diventa, e me ne rendo conto, molto più relativa. Mentre sulla prima risposta non vi è dubbio, il pelo cresce quando si diventa grandi ed è una risposta legata proprio al ciclo naturale della vita. La risposta perché il pelo si toglie è una risposta che, mi rendo conto, si differenzia a seconda della bambina che lo fa e della mamma che risponde. Io dico, per una questione estetica, perché non mi piace tenere il pelo sulle gambe, invece mi piace tenerlo sotto le ascelle, ma ci sono altre donne, le dice: sì, ma io l'ho visto che le altre non ce l'hanno. Sì, le altre non ce l'hanno, e perché non ce l'hanno? Ecco, mi rendo conto allora che appunto è una risposta culturale. Allora, liberi tutti, il punto è sempre che non diventi né un tabù e né diventi uno standard ossessivo. Allora, io uso sempre una cartina di tornasole per qualunque tendenza, per qualunque smania, per qualunque moda. La guardo, la osservo e dico: ma questa roba mi fa sentire più libera, io personalmente? Ok, se dentro quella roba io sento che c'ho un lacciolo o una catena o una manetta via telare, non mi interessa più. Se mi ci sento libera, allora dico: vabbè, ok, mi piace, la provo. In questo senso, allora va benissimo qualunque sia la decisione, però liberi voi, ma libera anche io. Silvia, buongiorno. Silvia? Io penso che la depilazione sia una questione di libertà. Allora, tutta questa corsa all'estetica è per seguire la moda. Vanno di moda le ascelle depilate negli uomini? Tutti gli uomini, certi uomini, si depilano. Vanno di moda le sopracciglia depilate negli uomini, che sono, secondo me, orribili. Niente di peggio del sopracciglio che cambia tutta l'espressione del viso una volta che è depilato. Quindi, essere schiavi della moda. Poi uno è libero di fare quello che vuole, però si va a vedere quali sono le persone che seguono la moda, guarda caso sono quelle che si depilano. Quindi, però Silvia, quello che cerchiamo di capire questa mattina, siccome questa moda ormai se ne parla tanto, siccome la moda in realtà ha un suo valore di costume quando è una tendenza, quando rappresenta una punta d'avanguardia, quando oggi tutti ormai si depilano, la maggior parte si depila, quindi la moda è già passata. Vorrei capire il passo successivo, cosa accadrà? Ritorneremo alla scella pelosa con orgoglio stentata e con acume e desiderio osservata? Torneremo agli uomini? Sì, perché ci renderemo conto che poi il pelo è comunque una parte assolutamente animalesca che viene appunto, come diceva la scrittrice, che viene fuori nel momento in cui si cresce, nel momento in cui gli ormoni si muovono, e allora facciamoli muovere. Grazie Silvia. Maria Rosa, sì, sentiamo qualche ascolto. Sì. Ecco. Allora, io volevo dire che l'epilazione non è una questione solo di adesso. Io ho 56 anni, mi ricordo che da ragazza si faceva di tutto per depilarsi soprattutto le gambe, con dei dischetti tipo carta vetrata, oppure avevo una zia che andava in giro con 40 gradi all'ombra con le calze perché aveva il pelo lungo, poi sono uscite le creme e poi tutto un insieme di cose. Adesso diciamo che dall'estetica personale, cioè nel senso quando uno si guarda allo specchio non pensa di essere derivato dalle scimmie, ma un qualcosa di un po' più elevato a livello estetico, ci sono tante tecniche. Una volta c'era anche l'effetto grattugia, cioè quando il pelo cominciava a crescere, perciò guardatemi ma non toccatemi, che adesso con le nuove tecniche si è un pochino... Quindi diciamo l'acuirsi, lo specializzarsi, la tecnologia deforestatrice fa sì che uno possa scegliere tranquillamente. Una volta era esatto. Un'attività artigianale, fastidiosa, con la carta vetrata, con i dischetti, con le forbicine. Che stanno tra l'altro ritornando. Sì. La dicitura, nuovo metodo. Lei ha visto i dischetti da Black & Decker per depilarsi come nuovo metodo? Quasi Black & Decker. Me l'ha procurato mia figlia e fa: guarda cosa ho trovato, un nuovo metodo. Ho detto: guarda, quello io usavo io da ragazza. I dischetti di carta vetrata. E questo mi fa molto... Di carta vetrata è molto sottile. Sì, basta attaccarle a un trapano e va molto più veloce. E caspita, e si fa molto più territorio. Melog. La realtà condivisa. Anzi, ho notato un'altra cosa. C'è un trend di quest'estate. Io non lo so se quest'estate o è da un po' di tempo. Molti ragazzi si depilano le gambe. Ma perché? Cioè, se abbiamo una cosa di bello è che non dobbiamo depilarci le gambe, insomma, non dobbiamo perdere troppo tempo a prepararci in bagno. Ce li ho lì, guarda. E peli sulle gambe. 800 24 00 24, stiamo toccando un argomento scabroso, me ne rendo conto, ma mi piace riflettere sul fatto che oggi comunque si possa discutere anche di questo: farlo o non farlo, perché farlo per ragioni estetiche, farlo perché si ha paura della crescita, della presa necessaria di responsabilità che porterà all'età matura, farlo anche, come mi suggeriva Alessandra Di Pietro, che è qua in studio con me, forse perché si ha anche paura di una certa animalità, di qualcosa che non abbiamo più gli strumenti per contenere o per gestire. Mi sembra che ci sia anche una necessità di voler mostrare tutto. Proprio stiamo in un mondo in cui mostriamo tutto, per gioco, per volontà, per divertimento. Nei social network mostriamo tutto, i programmi in cui si discutono, dal Grande Fratello ai talk show in cui si discutono i sentimenti, siamo proprio esternalizzati, mostriamo tutto. Allora, è ovvio che il pelo è una dimensione che nasconde ed è una dimensione che ci riporta molto ad un'essenza di come siamo proprio anche un po' come animali, ed è ovvio che gestire questa parte non è tanto facile, perché innanzitutto indica che siamo diventati più grandi, indica che ci prendiamo delle responsabilità e indica anche che andiamo a scoprire l'altro. Allora, nell'incontro con l'altro c'è sempre un po' di paura e c'è anche un po' di mistero. Allora, che cosa succede quando cade ogni schermo? Quando cade ogni schermo e quando solo ci si mostra, prevale, dal mio punto di vista, la necessità di guardare molto meno quella di toccare, quella di incontrarsi. Allora mi sembra che in questa smania eccessiva, per carità, non quella quotidiana e necessaria dello stare bene, dell'igiene, di tutto, ma in questa smania eccessiva, in questa paura quasi di non voler trovare un pelo, non dover fare un odore, non dover mostrare niente che non sia imperfetto, c'è più una tendenza a sentirsi bene, ad eccitarsi e a voler guardare piuttosto che quello di voler toccare. Lasciare il rapporto sempre su un piano estetico, togliendo quell'aspetto umbrate, quell'aspetto lievemente limaccioso che c'è nella attrazione fisica fra esseri umani. Un po' una paura del buio, un po' una paura di quello che non siamo in grado di vedere. Allora basti pensare che appunto è talmente normale mostrare tutto che non voler mostrare qualcosa è ai limiti quasi della perversione. Allora è buffo pensare che oggi bisogna andare su un forum e scoprire che c'è un forum dedicato alle donne pelose. O piuttosto che quello che prima era la norma, magari nei film per adulti, cioè appunto delle donne che mostravano i genitali con il pelo, adesso è diventato proprio un genere. Tu pensa che nella sua elementarità, nel suo desiderio di rappresentare la rozzezza, nell'essenza più sublime, Cettola Qualunque dice più pelo per tutti, rappresentando la donna con il pelo, cioè la femminilità è il pelo, quindi è la zona ombrosa, la zona misteriosa, la foresta impenetrabile, l'animale peloso che ti divora, tutto quello che sempre ancestralmente abbiamo pensato la donna. Oggi non c'è più, oggi è quella candida Barbie a piena luce che possiamo guardare, con la quale si può giocare come appunto si gioca con le bambole. Sonia. Ciao a tutti, buongiorno. Come è messa lei? Fantastici, complimenti. Avete affrontato parecchi argomenti, sempre riguardanti i peli, il corpo, il toccare. Sarebbe un po' anche un sentire, no? Invece voler, beh, lei come la pensa? Di voler vedere e toccare, anche sentire, no? La propria pelle. Uh-huh. Sentirsi a pelle, perché come dicevo... Ma qua si parla più che altro, Sonia, di cavalcare a pelo, questo è l'argomento oggi, non tanto sentirsi a pelle. Sì, lo so, ma il pelo è sulla pelle. Beh, lei come la pensa, dal suo punto di vista? Uomini depilati o uomini pelosi? Ci donne... vuole un equilibrio, sicuramente. E sicuramente ci vuole anche proprio un sentire la pelle e quello che è il tutto, non si può esagerare. Lei che mestiere fa, Sonia? Che mestiere fa, pelosi. Sonia? Sonia, che mestiere? Io faccio la massaggiatrice e l'estetista, quindi e lei sta ancora studiando scienze motorie. Quindi ha le mani in pasta tutto il giorno rispetto a quello di cui noi parliamo. Sì, e anche come esperienza personale, perché io apprezzo su di me una depilazione e sicuramente non trovo il senso in una depilazione completa e magari delle parti intime. Ma corrisponde in realtà a questa sorta di sala delle torture, urla, pianti, terrore? Ma secondo me dipende molto dalla mano dell'estetista. Lei dice riesce a farlo con delicatezza. Ma dipende se una persona riesce a essere rilassata, se ci sono degli accorgimenti. Non ho dubbio che lei metta le persone a suo agio. Si evita, insomma, di partire dalle zone, per esempio dalla caviglia, se una persona è molto pelosa si parte da un altro punto. Mm-hmm. Ci sono dei punti che sono molto delicati. Cioè dalle orecchie per arrivare alla caviglia facendo finta di nulla. Però vorrei chiedere alla signora una cosa. Lei ci conferma che soprattutto le ragazze più giovani, cioè le ragazze adolescenti, vogliono essere depilate fin dall'inizio della comparsa dei peli? Quindi, come dire, il primo segno di diventare adulte viene subito, immediatamente rimosso. Represso. Ma penso che sia normale, cioè che una bambina veda una bambina che diventa ragazza, si renda conto del cambiamento. È importantissimo che questo cambiamento venga espresso con le persone che condividono la sua crescita. Sì, ma quello che chiede Alessandra Di Pietro. Cioè, ci sono delle persone molto pelose che magari se lo tengono per sé e non lo esprimono e fanno anche magari delle cose tipo usare rasoi e che non è il caso, insomma. Però è chiaro, Sonia, cioè, tira acqua al suo mulino, chiaro lei. No, non è acqua al mio mulino, è una cosa di... Lo fa per mestiere. Ma sì, no, sì. Non lo faccio per mestiere, beh, io studio scienze motorie, quindi non è detto che lei farò questo per tutta la vita. Ma no, vabbè, detto anche che in questo momento lo sta poi, facendo. Ma mica lo considero una categoria disprezzabile. Quella la vita crescono prima e crescono più duri, cioè uno lo sperimenta. Chiaramente non c'è il problema delle follicolite che si sperimenta con la ceretta. Certo, no, è vero, io ricordo. Quando tutto il pelo, se non riesce a uscire o si incava. Sì, però guardi, sta diventando una trasmissione tecnico-medica, non è questo il senso. Sonia, si è espressa. No, Elisa, sì, la parola seguo, se no parla solo lei. Elisa. Pronto, salve? Sì. Io ho 33 anni e parto domenica per il mare con i miei peli sotto le ascelle. Oh, finalmente. E a me capita di parlare di queste cose con le amiche e loro mi guardano sospirando e mi dicono: tu sì che sei coraggiosa. Ecco, vi è considerato un atto di coraggio non depilarsi le ascelle. Vede che alla fine tutti i salmi finiscono in gloria. Cioè, siamo arrivati alla fine della trasmissione confermando quello che era la nostra ipotesi iniziale. Lei si sente come quasi una diversa, quasi una persona che vada contro natura o contro il buonsenso comune perché va al mare e non si pone il problema di depilarsi le ascelle. Praticamente sì. Alessandra, vuoi dire una domanda? Sì, voglio dire questo, che esattamente quando poco fa raccontavo delle celebrities, raccontavo che delle donne hanno proprio fatto dei comunicati stampa, attrici, cantanti. Fra queste c'è stata una cantante che ha fatto un comunicato stampa in cui diceva: guardate che io ricevo decine di lettere di donne che mi dicono brava, brava, tu che hai il coraggio di portare le ascelle pelose, io non potrei mai perché non sono in grado di sostenere lo sguardo di disprezzo degli altri. Allora torniamo, è un problema di libertà. Quindi Elisa, lei questa mattina è la testimonial perfetta del diritto delle donne di andare al mare con l'ascella pelosa. Si sente orgogliosa di questo? Ah, certamente. Lanci lei un messaggio di liberazione, consideri che questo oggi è il giorno del pelo pride, lo chiami come vuole. Dica alle sue colleghe di andare al mare tranquilla senza porsi questo problema. Fate come preferite, come vi piace di più e non guardate lo sguardo riflesso degli altri. Soprattutto dove? Sotto le ascelle, ma anche nell'inguine. Grazie a Fabrizio Intonti, grazie a Valerio Rocchetti, grazie a Alessandra Di Pietro, grazie a tutte le signore con le ascelle pelose che questa mattina ci hanno guardato con un sospiro di orgoglio del fatto che noi non obblighiamo loro di sottoporsi alla tortura della depilazione.